Europa 24. Un buongiorno da Maria Piera Ceci. In primo piano le parole del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. L'avete sentito anche poco fa in effetto giorno. Dura la bacchettata del premier Renzi e poco fa la replica del ministro dell'economia Padoan. Da parte del governo italiano non c'è alcuna volontà di offesa, ma atteggiamento costruttivo. Una conferenza stampa stamani qui a Bruxelles. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha criticato il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, che in più di una circostanza nelle ultime settimane ha rimproverato l'esecutivo comunitario su vari fronti. Tra le questioni che stanno complicando i rapporti tra Roma e Bruxelles c'è il futuro del sistema bancario italiano e l'andamento dei conti pubblici sempre italiani. Jean-Claude Juncker ha detto di non capire il comportamento di Matteo Renzi, lasciando intendere che dietro alle critiche vi siano mere scelte di politica interna. Il momento è particolarmente delicato perché in molti paesi l'emergere di partiti nazionalistici e radicali sta mettendo a rischio gli equilibri politici nazionali e quindi europei. Qui a Bruxelles si capisce che Matteo Renzi voglia difendere gli interessi italiani nelle istituzioni comunitarie, ma si nota che la sua strategia potrebbe avere due difetti. È troppo aggressiva e manca di costanza. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Dure dunque le parole di Juncker anche sulla questione migranti, nel giorno in cui anche la Svizzera, dopo la Danimarca, ha deciso di imporre ai rifugiati di consegnare fino a 10.000 franchi svizzeri, circa 9.000 euro, dei loro beni per pagare le spese di accoglienza. E a proposito dell'emergenza migranti, arrivano le parole del ministro dell'Interno Angelino Alfano. Le ricollocazioni di profughi fra i vari paesi dell'Unione sono un flop dell'Europa, con numeri da condominio, dice a Radio 24 Alfano. Ascoltiamolo nell'intervista rilasciata a Raffaella Calandra per Storiacce. Noi abbiamo dei numeri da condominio sulla ricollocazione e quindi questo può essere un grande flop dell'Europa. Una nave che, avendo bene avvistato un iceberg, facesse rotta verso quell'iceberg inabissandosi. O l'Europa gestisce la questione dei profughi, l'alternativa è il fallimento totale, non c'è una terza strada. Abbiamo delle cifre sulle ricollocazioni italiane? Ma niente, siamo a numeri da condominio, fin qui non ha funzionato, siamo a poche centinaia e questa è una cosa per noi davvero molto grave. Noi abbiamo mandato avanti i nostri compiti, e cioè abbiamo rispettato le regole europee, identifichiamo tutti coloro quali entrano da noi ed abbiamo aperto due hotspot, oltre che a Lampedusa, anche quindi a Trapani. Tutti quelli che non hanno diritto a stare in Europa perché non hanno diritto all'asilo devono essere rimpatriati, perché non c'è una possibilità di dire prego accomodatevi tutti. L'italiano non sarà più discriminato nei concorsi dell'Unione Europea per la selezione del personale delle istituzioni. Dopo una lunga battaglia legale e una serie di ricorsi presentati dall'Italia, che ha fatto fronte comune con la Spagna, a partire dalla prossima primavera non saranno più inglese, francese e tedesco a farla da padroni. La notizia arriva con la risposta della vicepresidente della Commissione Cristalina Georgieva a un'interrogazione presentata dal vicepresidente dell'Europarlamento Antonio Tajani insieme al collega spagnolo Luis Ramón Valcarcel, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia che avevano dato ragione ad Italia e Spagna sulla discriminazione delle lingue nazionali. Sentiamo Tajani al microfono di Sergio Nava. Per fare il concorso bisogna saperne due e una di queste due può anche essere l'italiano. Prima era escluso che magari un cittadino, non so, francese che conosceva l'italiano non poteva fare l'esame, era magari svantaggiato rispetto a un cittadino francese che sapeva il tedesco, perché il cittadino francese che conosceva l'italiano non poteva fare l'esame perché doveva farlo in francese e in tedesco, francese e inglese, quindi non era... era avvantaggiato rispetto ad un altro che magari aveva studiato l'italiano perché era figlio di emigrati italiani, diciamo in Belgio, un cittadino belga poteva fare l'esame in francese e in italiano perché magari i genitori o i nonni erano italiani, non lo poteva fare e era costretto a farlo in francese e studiare un'altra lingua, quindi era costretto a fare qualche cosa di più rispetto ad un altro cittadino. Che poi bisogna sapere le lingue, questa è un'altra questione, io non ne faccio una questione di provincialismo, però credo che sia giusto difendere la parità della lingua italiana rispetto ad altre lingue. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.